Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Ecco, adesso scusa anche devo bere. Bevi, perché è giusto così. Gli speaker radiofonici devono avere... Bere, soprattutto in diretta. E bruciare questi 5, 6, 8 secondi senza dire niente. Comunque siamo sempre qua, Drago, sempre all'asilo. Sempre all'asilo. Cosa vuoi fare? Il resto dei bambini dov'è? Siamo solo io e te. Sarà a casa che si annoia, quindi dai. Sì, annoia. Come no? Dove vuoi che siano? Ma sono al mare con la nonna. Ah beh, sai che bello. Ma come, Drago? Con la nonna. Il mare, i gabbiani, la chitarra. Il sole è un ammasso di gas incandescente, un'enorme fornace nucleare, e l'idrogeno si fa elio nel calore, più calore che ci sia. Yo ho, che caldo, il sole è un posto che non si può abitare. Ma senza il sole qui da noi non si può proprio star. Il sole è un ammasso di gas incandescente, un'enorme fornace nucleare, e l'idrogeno si fa elio nel calore, più calore che ci sia. Il sole è caldo, il sole è grande, il sole è sempre lì. Spalmi la crema. No, ma nemmeno morto, spalmatela da sotto. Adesso non ci arrivo sulla schiena. Ci dai, arrivi, Drago. Ci arrivi, con un po' di sforzo ce la fai. Ho un nevo sospetto. Un? Nevo. Un neo? Nevo. Ah, si chiamano i nevi. Sì. Non me l'hanno tolto perché mi sono opposto, perché uno mi ha detto, ma non togli, cosa lo togli? Ma tu non devi stare a sentire quello. Però non devo stare al sole, mi devi mettere la crema. Ah, ci arrivi da solo, non dai. Ci arrivo, è impossibile spalmarsi la crema da soli, Drago. C'è perfino chi ha vinto un premio Ig Nobel per aver sintetizzato in una formula l'impossibilità dell'essere umano di spalmarsi uniformemente la crema da solo. Ah, sì. Cioè, non è mica il premio Ig Nobel è quello che, vabbè, ricordiamo, viene assegnato alle ricerche scientifiche inutili. Ma guarda che è vero, che piacciono, sì, a noi. Inutili, ma è verissimo. Cioè, la lunghezza del tendine del braccio, sì, vedi, non permette di raggiungere certi punti, vedo, della schiena, vedo, sensibilissimi ai raggi del sole, come questa zona della mia spalla del sinistra occupata da questo nevo sospetto. Che il rapporto tra superficie esposta e lunghezza della leva non soddisfa i parametri. Vabbè, ma chi se ne frega? Scusami, se non te la spalmi uniformemente, l'importante è che la maggior parte del corpo sia protetta, no? Te la sei ma messa il corpo si è protetta, come parli? Così. Le poche zone in cui non c'è la crema si scottano, hai capito? Stai anche basta un centimetro. Ma no, i raggi del sole che vengono rimbalzati praticamente dall'ammasso generico di crema che tu hai spalmato. Sì, questo tu lo studiavi più o meno dappertutto. La lingua germanica all'università, sapevi anche questa cosa. Vabbè, ma dai, ma è una cosa normale. No, se tu metti la crema su tre quarti del corpo. Quando si lasciano degli spazi senza crema, quegli spazi si scottano, diventano tutti rossi mentre il resto rimane bianco. Diventa una specie di leopardo. Ma sì, e poi fanno male cane, perché i raggi del sole sono come i raggi laser. Cosa dici? Dove colgono, colgono. Ndogoyo goyo. Lo diceva sempre anche il premio Ig Nobel. Allora, Ndogoyo goyo. Facciamo che, allora, tu te la metti come puoi, io finisco il lavoro tappando i buchi, ok? Così anche il premio Ig Nobel è contento. No, ma senti, facciamo una cosa, me la spalmi tutta tu. Ma no, dai. Dai, Drago, se il tuo pudore è farti vedere mentre spalmi la crema un altro uomo, allora non dovresti nemmeno tappare i buchi. Ma poi detta così, tappare i buchi, tanto è peggio stanno, che mette la crema. Già guardando tutti qui in spiaggia, perché tu parli sempre forte. Vabbè, passa una il tubetto che faccio da solo. Tubetto? Quale tubetto? La crema, Drago, il tubetto. Ma non dovevi portarla tu? Io la crema, io ho portato il tubetto, sì, del Cenovis, non la crema. E tu? E io non l'ho portata. E neanche no, io. Io non la metto mai la crema. Quindi pensi solo a te stesso. No, vabbè, me la sono dimenticata. Cosa diceva il premio Ig Nobel di quando uno dimentica la crema? Che magari ti devi tenere sulla maglietta e stai sotto l'ombrellone. Vabbè, allora hanno fatto bene a dargli il premio, devo dire che. Sì, ma non ci sono ombrelloni qui, Drago. Ipotesi che il premio Ig Nobel non contemplava. Contemplava l'ipotesi che quando si dimentica la crema può sempre mettersi a piovere. C'è andata bene, ma. Senti cosa ti auguro. Che ti cadesse un fulmine da un cielo di tempesta. se oggi il cielo è limpido, almeno qualche rondine te la sganciasse in testa. E ora, bambini, ricreazione! Uè, mi ascoltate o no? Ciao, sì, bambino, ciao. Alberto. Ciao. Allora, vi devo raccontare una roba. Sì. Allora, i miei genitori mi hanno portato a una manifestazione di bambini. Ah, bello, una manifestazione di bambini. Sì, bellissima, eh. Ma cos'era? Non so, era un posto grande, una piazza, no? Sì. Era un posto pieno di bambini con i genitori. I genitori avevano delle bandiere rosse, no? E cantavano canzoni tipo Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa. È una manifestazione politica, preistorica, tante. Sì. Ah, quella lì, quella situazione lì è la politica. Certo, è la partecipazione popolare alla politica. Vabbè, insieme, allora è bella, no? La politica, no? Qui sento dire tutti, sta politica. Certo. Mi aveva sempre annoiato la politica. Sì. Per me la politica è Gad Lerner. Sì. Sei quello che parla tutto un po' salivoso. Sì, salivoso. E lì il lunedì in TV. Quella sì. È la politica. No, caro bambino Alberto, la politica è un'altra cosa. La politica in realtà non è Gad Lerner salivoso, ma è ideali, passione, impegno. Saliva ci sta. Partecipazione. È casino. Impegno, casino. Va bene, certo. È casino perché noi facevamo solo casino. Solo casino. Noi bambini siamo stati chiamati per fare casino, no? Sì. Per far vedere che c'erano tutti i figli, i bambini, perché ce n'erano una marea. Sì. I figli di manifestanti. Ho capito, ma esattamente cosa dovevate fare? Cantare, no? E sorridere. Cantare bandiera rossa, trionferà. Anche. Ma soprattutto quella che ci ha fatto cantare più spesso. È la canzone Faccia di merda. No, ecco, vabbè. Ma no, per l'acciometro! È il ritornello stesso della canzone. Ho capito, vabbè, il famoso country del Cavaliere Nano che ha imperversato in rete con tutto un codazzo di polemiche, come al solito, dato che il soggetto della canzone è, tanto per cambiare, il nostro amato Premier. Però poi ci credo che ci vengono fuori tutte queste polemiche, perché usare dei bambini per cantare delle oscenità senza che sappiano veramente per chi e per cosa le stiano cantando non è tanto bello, dai, diciamo. Pensa se fosse uscito un video con i bambini che urlano le stesse cose a Bersani o a Vendola. Apriti cielo, dai. Per Vendola c'è già la mia canzone, Quale? È quella dei Finocchi Cotti. Ma vabbè, dai. È solo che lui non è cotto. Ma bambino Alberto, dai. Comunque, sono stupidaggini queste che poi vedi, che poi Tito sia. Tito, sta bravo, no? Ho detto stupidaggini. E poi Tito ti morde. Ma scusate, Tito è qui in difesa di Vendola? Ma no, vabbè. Io non l'avevo mica capito. No, ma lui sta qui in difesa del buon gusto e della rettitudine di pensiero, quindi. Ma no, niente, dai. Vabbè, allora, quindi, poi cos'è successo alla manifestazione? Siete venuti alle mani coi figli dei manifestanti di destra? Sì. Ma immagino. No, non ce n'erano. È tempo di crisi, Drago. L'affitto di figuranti per le manifestazioni ormai è un lusso. Cioè, non te lo puoi mica permettere così ogni volta. E quindi com'è finita, bambino Alberto? È finita in una grande grigliata al Parco Nord. La grigliata. Tutti gli adulti ubriachi. E dei bambini... Anche, ma ubriachi anche noi. Ma come? Possibile. Ma sì, perché poi lì ho organizzato, siccome l'atmosfera era un po' bassa, ho organizzato un gioco, una gara, chi beveva più fondi di bicchieri. E noi non sapevamo cosa c'era dentro, no? Quindi glu. Insomma, è stata una bella festa. Vabbè. E quindi questa per te sarebbe la politica. Ma scusate, me l'avete detto voi prima che era politica, no? Io l'avevo scambiata per una festa, per un carnevale fuori stagione, una roba... Carnevale. Ma forse hai ragione tu, sai? Già. E va fuori stagione. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi... Ma cos'è? Ma non è sempre cos'è? L'attacco, no? L'abbrivio, no. Anch'io. Prime tre righe. Io queste. Dopo gli occhi azzurri non mi ricordo niente. E poi? E poi niente. No, e poi? E poi chiedo asilo a tra24.it. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi...